sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 luglio, il sole in regione sorto alle 5.24 e tramonterà alle 21. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Daniele Lettige e Armando Mucchino. I titoli. La valorizzazione dei sottoprodotti dell'agricoltura in un progetto quadriennale di AgriFood FVG. La magia delle lucciole nelle notti in campagna raccontata da Angelo Floramo. Grazie o a causa del cambiamento climatico, anche in Friuli Venezia Giulia si può far crescere il tè. Birre artigianali e birre agricole, due lati di un successo crescente. Piccolo prontuario pratico per fare le migliori marmellate casalinghe. Nella rubrica dei fiori il Platicodon grandiflorum, la campanula cinese. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Il riutilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura. Questo è lo scopo di un progetto quadriennale di cui è partner anche la Fondazione AgriFood di Colloredo di Montalbano, il cluster agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con il suo neopresidente Pier Giorgio Sturlese. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Di quali sottoprodotti? Stiamo parlando di un progetto che vuole proprio individuare delle soluzioni pratiche di economia circolare per creare valori dai sottoprodotti dell'agricoltura in tre filiere che sono strategiche per la nostra regione: quella vitivinicola, quella cerealicola e quella forestale. Il progetto è un progetto che è stato finanziato nell'ambito di un programma quadro europeo che si chiama Horizon Europe. È il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo ed è gestito direttamente dalla Commissione europea. Come ci coinvolge? Ci coinvolge in quanto partner di questo progetto, che insieme ad altri partner della Svezia, Spagna, Olanda, Germania, Grecia e Italia, qui ci concentreremo proprio su queste tre filiere, cercando di capire come studiare e sviluppare insieme ai nostri partner dei modelli di business che possano essere applicati sul territorio regionale e possano essere utilizzati dalle nostre aziende agricole in una logica di economia circolare. Tradotto in realtà nei vari settori. Allora, per quanto riguarda la filiera vitivinicola, si potrebbe valutare la possibilità di estrarre dei composti e coloranti naturali dalle bucce dell'uva dopo la distillazione. Per la filiera cerealicola, ad esempio, si potrebbe analizzare se gli stocchi del mais potranno essere riutilizzati nel settore zootecnico, con soluzioni anche innovative rispetto ai tempi passati. E per la filiera forestale, ad esempio, valutare se la vecchia attività di estrazione delle resine dal legno possano essere riprese in considerazione per la produzione di prodotti nell'ambito della chimica verde. Come vengono coinvolti gli operatori agricoli? Allora, gli operatori agricoli verranno coinvolti inizialmente attraverso delle interviste per capire qual è il grado di interesse, del loro interesse rispetto a questi argomenti, e poi verranno individuate tre aziende attraverso un bando che potranno proprio provare ad applicare realmente questi modelli che andremo a studiare insieme a tutti gli altri partner. Ci potrebbe essere quindi un ulteriore valore aggiunto? Assolutamente, è proprio quello che ci auspichiamo che realmente il valore aggiunto di questi progetti nell'ambito dell'economia circolare possano avere un impatto proprio sulle aziende agricole, sul settore primario, che solitamente e spesso invece non vengono molto coinvolte e non riescono a avere dei risultati concreti da questo riutilizzo, ed avere anche per la prima volta dei modelli economici da discutere con dati reali su queste tre filiere che valorizzino tutti i sottoprodotti che sono sempre stati un po' ipotizzati ma mai valutati fino in fondo. I primi passi dunque adesso spettano ad AgriFood. Certo, noi adesso inizieremo a fare i primi incontri a livello transnazionale con i nostri partner, dopo partiremo proprio con questa fase di indagine presso le aziende agricole del nostro territorio interessate da queste tre filiere, che ricordo essere le filiere vitivinicola, cerealicola e forestale. Chi ha la fortuna di vivere in campagna ancora incontaminata, in queste notti può imbattersi nello spettacolo delle lucciole che tanto ha impressionato, già da piccolo, Angelo Floramo. Molto prima di leggere Pasolini, loro c'erano già e brillavano dentro i miei occhi increduli. Cominciava sempre così, una timida avanguardia tra l'erba del prato appena fuori casa, una o due luci deboli, poi sempre più intense, tanto simili, nel pallido fulgore, ai grani fosforescenti del rosario che la nonna teneva appeso al muro sopra la spalliera del letto, l'usignis, le lucciole. Nel giro di qualche notte la campagna diventava un cielo capovolto, in cui si agitavano costellazioni sempre cangianti. L'alito caldo della giornata sembrava essere rimasto impigliato ai fili d'erba, mentre la terra cominciava a intridersi degli umori della notte, diventando umida e morbida. Correre scalzi a perdifiato dentro a quello stupore era un'esperienza che conservava tutto il sapore della magia, come se le fiabe raccontate sul bordo del letto, prima di dormire, prendessero vita tutte in una volta e cominciassero a fluttuare intorno, in una vertigine di sensazioni davvero difficili da raccontare. Chi non le ha mai sperimentate forse non riesce a capire, ma chi ha avuto la fortuna di viverle sa che non ci sono parole capaci di esprimere l'istante in cui la meraviglia era a portata di mano, tanto che alle volte capitava che si appoggiasse sulla punta delle dita. Alla fine, senza quasi più fiato nei polmoni, con il cuore che batteva tanto forte che avrebbe potuto uscire da un momento all'altro per godersi anche lui l'incanto, ti lasciavi cadere di spalle nel folto del manto erboso, profumato di mille essenze, ubriaco di un tutto di cui anche tu eri parte. In alto, il luccicare delle stelle in un burrone buio e infinito, che se non ti tenevi stretto a qualche ciuffo d'erba medica, potevi anche caderci dentro e non tornare più indietro. Tutti intorno, loro, che si lasciavano portare da chissà quale musica misteriosa. Alle volte si nascondevano tra i cappelli delle ragazze, trasformandosi in diademi meravigliosi, degni di una principessa appena uscita dal libro illustrato che tenevi sul comodino. Accoglierne una o due nelle mani, tenute a conchiglia, diventava quasi un patto segreto fra te e la natura. Quella madre è capace di tanta grazia e bellezza che a pensarci oggi viene da commuoversi. Era il tempo in cui credere all'impossibile era normale. La porta dei prodigi se ne stava ancora socchiusa e invitava a passarci attraverso. Saremmo diventati grandi un giorno, all'improvviso, troppo impegnati, troppo seri, troppo stupidi per andare ancora a Lusignis, dentro ai fossi dei prati, davvero convinti che fossero fate. Gioie e dolori del cambiamento climatico. Tra questi effetti c'è che anche qui da noi si può coltivare e farsi il tè in casa. Ci dice come il professor Raffaele Testolin. Oggi vi racconto come coltivare il tè. Capisco la perplessità perché il tè, una camelia sempreverde, soffre il freddo, ma considerando i cambiamenti climatici, tenendo le piante riparate dalle temperature fredde invernali, si può certamente coltivare questa pianta come si fa ormai abitualmente con limoni ed altri agrumi. Allora, vediamo in breve come fare. Le piante potete acquistarle in rete, trovate semi, ma con un po' di pazienza anche piante in vaso. Se d'inverno dovete trasferirle in ambiente riparato, vi consiglio di piantarle in vaso. Usate mezzo terriccio comune e mezza torba acida, quella per azalee, per capirci. Dovrete attendere almeno un paio d'anni prima di farvi il tè, ma a partire dal terzo anno in poi potrete raccogliere i germogli apicali ogni 2-3 settimane. Lasciateli appassire all'ombra per un paio di giorni, muovendoli ogni tanto. Quando sono sufficientemente appassiti, passate la mano sopra i germogli arrotolando le foglie. Lasciate ancora appassire un po' e poi scaldate una padella sul fuoco. Se volete un tè verde, saltate le foglie appassite per pochi secondi in padella. Se volete il tè nero, saltatele finché sono belle abbrustolite. Con l'esperienza imparerete i tempi. Confezionate il tè in sacchetti di carta asciutta che metterete in un barattolo in attesa dell'uso. Avete tempo 100 anni per consumare questo tè. Se non siete dei cultori del tè, vi dico due parole su come prepararlo. Considerate che il tè verde e il tè nero si preparano in maniera diversa. Questa è la ricetta per il tè nero. portate l'acqua ad ebollizione, spegnete il fuoco, aspettate 10-20 secondi. La temperatura deve essere di poco al di sotto dei 100 gradi. Aggiungete il tè e lasciatelo in infusione per 4 minuti. Filtrate e buttate via le foglie del tè non più utilizzabili. Il tè verde va messo invece in infusione in acqua a temperatura di 80-85 gradi. Temperature più elevate rendono la bevanda troppo amara. Senza rimuovere le foglie del tè, travasate tutto in una borraccia o in una bottiglia. Potete aggiungere continuamente acqua calda all'infuso che potete consumare per qualche ora come fanno i cinesi. Birra artigianale e birra agricola, quali le differenze? Ce le illustra oggi nella rubrica dei sommelier Vladimiro Tulisso. Parlare di birre significa anche affrontare l'importante fenomeno che ha preso forma in Italia a metà degli anni 90 del secolo scorso. Si tratta della nascita del movimento della birra artigianale, che in pochi anni ha dato visibilità a un Italian style riconosciuto a livello internazionale. A garantirne il successo, la straordinaria biodiversità di cui è ricco il nostro paese. Nel caso della birra, sono state le castagne e le varietà di questa tipologia le prime a definire lo stile attraverso l'utilizzo della farina che ha ancorato la bevanda ai diversi territori di produzione. Anche i cereali minori come il farro o il grano duro e poi le spezie e le erbe aromatiche hanno dato vita negli anni a birre specifiche molto territoriali e altrettanto è accaduto con il mosto di vino. Tutte le regioni italiane, e questo è un altro unicum mondiale, producono uno o più vini autoctoni, cioè tipici del luogo, e i loro mosti con le rispettive caratteristiche organolettiche firmano ormai decine di tipi di birre. Una produzione impetuosa e fantasiosa, tanto che le IGA, Italian Grape Ale, questo il nome dato alla birra con il mosto, sono ufficialmente riconosciute e apprezzate anche a livello mondiale. Versioni più sofisticate prevedono poi birre acide o maturate in botte. Tra i birrifici artigianali, quelli definiti agricoli, ovvero che coltivano in proprio più della metà delle materie prime utilizzate nella produzione, occupano una posizione interessante poiché sommano all'arte brassicola la tradizione agricola. Alla fine del 2023 si contavano in Italia oltre 900 birrifici artigianali, dei quali circa 150 agricoli. Nella nostra regione i birrifici artigianali sono una quarantina riuniti in un'associazione. Rappresentano la continuità dell'importante tradizione brassicola iniziata a Udine nel 1859 con la creazione della fabbrica di birra e ghiaccio Luigi Moretti e proseguita a Trieste nel 1865 con la Dreher. La birra artigianale nasce dalle mani e dalla fantasia del mastro birraio ed è molto lontano dal prodotto che si tracanna dalla bottiglia. È un prodotto di alta qualità, ottimo anche per gli abbinamenti a tavola, al pari dei vini migliori. Sono tante le avvertenze per confezionare in casa una buona marmellata. Michela Urbano elenca le cose da sapere e da fare. 7 cose da sapere sulla marmellata fatta in casa. 1. Ti basterà avere poco tempo a disposizione, un minimo di conoscenza e tanta passione per realizzare delle ottime marmellate personalizzate. 2. Scegli frutta di stagione non trattata, profumata e al punto giusto di maturazione. Usa i tuoi sensi per scegliere la frutta migliore, annusala e sentine la consistenza. Soffermati non tanto sul prezzo, ma sulla qualità del prodotto. Qualche piccola macatura o difetto estetico non influirà sulla resa finale, mentre un frutto che non ha raggiunto il giusto punto di maturazione comprometterà il risultato. 3. Lava accuratamente la frutta per eliminare eventuali residui di trattamenti. Laddove sia possibile, conserva la buccia. Nelle albicocche, mele e limoni è presente una buona quantità di pectina, un addensante naturale indispensabile per raggiungere la giusta consistenza del prodotto finale. Nei frutti con la buccia sottile, come le pesche, ti consiglio di scottarle brevemente in acqua bollente. In tal modo si sbucceranno facilmente con pochissimo scarto. 4. Quando tagli la frutta, cerca di mantenere uniformità nei pezzi, così la cottura sarà equivalente e ottimizzerai i tempi. 5. Fai macerare qualche ora la frutta nella quantità di zucchero prevista in ricetta. In tal modo svilupperà aromi più complessi. Lo sciroppo, inoltre, protegge la frutta delicata come le fragole da una cottura troppo violenta, che inevitabilmente ne altera il colore e il gusto. L'ideatrice di questo metodo di cottura è Christine Ferbier, chiamata anche la fata delle marmellate. Alsaziana, con zucchero nel sangue da 3 generazioni, è considerata tra le massime esperte in materia di marmellate e confetture. In effetti, seguendo il suo procedimento, possiamo scordarci barattoli colmi di contenuti dal colore incerto e con un sapore promesso solo sull'etichetta. 6. La sicurezza innanzitutto. Gli zuccheri e gli acidi previsti in ricetta fungono da addensanti e conservanti. Attieniti a ricette sicure, rispetta le proporzioni tra frutta, zucchero e acidi e le modalità di esecuzione. Un occhio di riguardo all'igiene, lavorare in un ambiente pulito, avendo preparato tutto il necessario per tempo, renderà questa pratica un piacevole passatempo. 7. Divertiti. Personalizza le tue marmellate giocando con le spezie e le erbe aromatiche. Le mele amano la cannella almeno quanto le fragole e il rabarbaro. I fichi adorano il rum e io impazzisco per la marmellata di pesche e timo. Platicodum grandiflorum, la campanula cinese, così intitola il suo contributo di oggi Alessandro Squizzato per la rubrica dei fiori. Il Platicodum grandiflorum, chiamato anche campanula cinese, proviene dall'Oriente, più precisamente da Cina, Corea e Giappone, ed è una pianta erbacea perenne, dal portamento eretto, con altezza massima di 50 cm. Fa parte della famiglia delle campanulacee. Le foglie sono lanceolate, di colore verde scuro. I fiori, di colore blu, rosa o bianco, quando sono in bocciolo assomigliano a dei palloncini, per poi aprirsi a campana, da aprile a settembre inoltrato. Nei suoi paesi di origine, questa pianta, più precisamente le radici, vengono utilizzate in insalate o nella medicina cinese. Vi invito però ad informarvi prima, in quanto essendo utilizzata da noi come pianta ornamentale, in serra viene gestita come tale e quindi con coltivazione standard. Concimazione, prodotti fitosanitari, eccetera. In ambito ornamentale, il platicodon viene utilizzato per abbellire balconi e terrazzi, in vasi e balconette, ma è anche ottima per essere posizionata in giardino e dai vuole. Sopporta bene l'afa estiva italiana ed è molto resistente al freddo, fino a meno 20 gradi. In questa situazione la parte aerea della pianta si seccherà, ma la radice, non appena sentirà il caldo primaverile, sarà pronta a far rispuntare i germogli. Posizioniamo la pianta in una posizione soleggiata per ottenere una fioritura più lunga e ricca. Si adatta anche alla mezz'ombra, a costo di qualche fiore in meno. Utilizziamo del terriccio universale con buona capacità di drenaggio per il suo allevamento in vaso. Si può rinvasare ogni 2-3 anni, ma bisogna sempre prestare molta attenzione alle radici, grosse ma delicate. Il pane di terra andrà maneggiato con cura. Irrighiamo il platicodon costantemente in estate, nei periodi più caldi, ma evitiamo i ristagni d'acqua. E dunque, se la teniamo in vaso, ricordiamoci di svuotare il sottovaso una mezz'oretta dopo l'apporto idrico. Concimiamo con un concime per piante da fiore ogni settimana, con l'acqua da annaffiatura. Nel mondo anglosassone, questa pianta viene anche chiamata ballon flower, per i suoi boccioli a pallina. Il nome platicodon deriva dal greco antico e significa grande campana. E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 21 e 21,20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento fra 18,50 e 19 euro, l'orzo tra 15,50 e 16 euro. Buona l'attività all'ortofrutticolo di Udine con prezzi moderatamente in rialzo. In Salta Gentile e la Lattuga Trocadero sono quotate da 1,30 a 1,80 euro il chilo IVA esclusa, i finocchi da 1,50 a 1,80, le zucchine da 1,30, i cetrioli da 0,90 a 1,40, i cavoli da 1,50 a 1,80, peperoni gialli e rossi da 2,30, i radici rosso tondo e quello di Treviso precoce da 2,50 a 2,80, i meloni da 1,50 a 2,80, l'anguria da 0,60 a 1 euro, le fragole italiane da 8 a 10 euro, le pesche e pesche noci da 1,30 a 2,80, le albicocche da 1,80 a 3 euro e le ciliegie da 6 a 8 euro il chilo. Nel settore della pesca, per la presenza ancora di mucillagini e meduse, l'attività è precaria e il prodotto in generale scarseggia e subisce un leggero aumento di prezzo. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunari e branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 26 a 34 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 12 a 32, le sogliole da 12 a 33, le canoce da 7 a 19, i palombi da 7 a 14, le mazzancolle da 14 a 18, le seppie da 10 a 14, i calamari da 26 a 33 euro, i gamberetti da 22 a 25 e il granchio blu da 2 a 3 euro il chilo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine, giovedì scorso, ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 50 e 52 centesimi il litro più premi qualità IVA. Ha inoltre valutato il montaggio di 90 giorni fresco, da 8,70 a 8,90 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi semistagionato da 9,80 a 9,90 con marchio di qualità tra 10,80 e 10,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30 e con marchio da 11,10 e 11,30. Infine, andamento diversificato per gli avicunicoli, il valore dei poli a terra oscilla da 1,24 a 1,28 euro al chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,64 a 1,66 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Sulle Alpi scorrerà un fronte che lambirà parzialmente anche il Friuli Venezia Giulia, determinando locale instabilità. Da lunedì l'anticiclone africano si sposterà verso nord, portando a stabilità sulla regione con progressivo aumento delle temperature e dell'afa. Domenica 7 luglio. Su pianura e costa cielo variabile, ma con maggiore presenza di sole verso la costa, dove nel pomeriggio soffierà vento moderato dal mare. Sui monti cielo da variabile a nuvoloso, con la possibilità di locali rovesci e qualche temporale, più probabili verso il cadore e nel pomeriggio. Anche sulla pedemontana non si può escludere qualche isolato rovescio pomeridiano. Temperature minime: sulla costa tra 21 e 23 gradi, sulla pianura tra 18 e 20. Massime sulla costa tra 26 e 28 gradi, sulla pianura tra 28 e 30 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera: 20 gradi a 1000 metri, 13 gradi a 2000. Lunedì di primo mattino, possibile residua nuvolosità. In seguito cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla fascia prealpina, variabile sulle Alpi, dove nel pomeriggio non si può del tutto escludere qualche breve locale pioggia. Temperature minime: sulla costa tra 21 e 23 gradi, sulla pianura tra 18 e 20. Massime sulla costa tra 27 e 28 gradi, sulla pianura tra 30 e 33 gradi circa. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 14. Tendenza: il cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Temperature in progressivo aumento con caldo afoso su pianura e costa. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Soreli a mont tal sac, di ploe duttuns lauach, ovvero se il sole tramonta nel sacco di nuvole ci sarà pioggia in quantità. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Daniele Letti, Gianamando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.